taxi al corpo. Sì, e quindi anche il camion, e quindi in genere tutte le persone che dipendono scarsamente dai mezzi, perché molto spesso i mezzi utilizzati adesso, sia camion che automobili, sono fatti in modo da assorbire queste vibrazioni. Ma tristemente abbiamo in Italia delle strade che sono delle buche senza fine, dei binari, delle disconnessioni, per cui è chiaro, certo, è meglio ogni ora almeno stare in piedi e camminare per almeno 5-10 minuti, però in certe mansioni temo che sia veramente difficile, quindi il meglio sarebbe nei momenti di pausa trovare modo di fare dell'esercizio fisico, del nuoto, delle camminate a passo di marcia e così via, insomma. Nel tempo libero. Noi continueremo invece a parlare del tempo che trascorriamo al lavoro. Molto spesso ce ne rendiamo conto, trascorriamo più ore con i colleghi di lavoro che non con i nostri figli, con i nostri cari. Anche questo può avere dei vantaggi in un certo senso. 800... C'è qualcuno che dice che sul lavoro sono venuto a riposarmi. 800 24 00 24. Peter Bescapè mi sta sorridendo perché evidentemente ha detto una cosa in cui lui è d'accordo. 349 238 6666, se volete scriverci, mandarci un messaggio. Una mela al giorno. Ci facciamo due calcoli. Non è un'operazione di matematica quella che voglio approfondire col mio esperto, ma è un'operazione chirurgica che riguarda queste piccole formazioni che vanno ad ostruire, a incunearsi nelle nostre vie urinarie, causando sintomi a volte davvero insopportabili. Chi ha provato una colica sa bene di che cosa sto parlando. Molto spesso il problema si risolve seguendo una terapia, quindi con l'ausilio di farmaci e correggendo lo stile di vita, ma qualche volta è necessario intervenire. Noi ci focalizzeremo oggi proprio su questi casi. In linea con noi abbiamo il dottor Guido Giusti, responsabile della Stone Center di Humanitas. Dottore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dottore, quando è necessario passare la mano al chirurgo? Sostanzialmente si deve intervenire quando le coliche continuano a recidivare nonostante la terapia medica o quando subentrano altre complicanze quali l'ostruzione delle vie urinarie o la febbre, conseguenza di una sovrainfezione batterica. Possiamo dire che in linea di massima i calcoli di dimensione inferiore ai 5 mm, che sono la gran parte, hanno circa il 90% di probabilità di essere espulsi spontaneamente e necessitano soltanto della terapia medica antidolorifica. Diverso è il discorso se aumentano queste dimensioni, in particolare al di sopra di 7 mm la probabilità di un calcolo di essere espulso spontaneamente scende fino al 15-20%. Dottore, però per fortuna ci sono tanti e diversi trattamenti a disposizione. Lei immagino sia pronta a illustrarceli, ma quello che mi sembra sia ormai evidente è che il ricorso al trattamento tradizionale, quello che si dice a cielo aperto, è ormai superato. Insomma, i calcoli si affrontano per altre vie. Assolutamente, questo è un punto fondamentale. La chirurgia a cielo aperto per la calcolosi urinaria fa parte del passato. Attualmente la gran parte dei calcoli vengono trattati con la litotrissia extracorporea ad onde d'urto, più conosciuta come bombardamento. Essa non richiede nessuna anestesia e rappresenta il trattamento di scelta per i calcoli ureterali fino a 1 cm e renali fino a 2 cm. Qualora questo trattamento però non vada a buon fine o in caso di calcoli di dimensioni maggiori, la soluzione è la moderna chirurgia endoscopica denominata endurologia. In particolare dobbiamo distinguere se il calcolo è in uretere o se è nel rene. Se è in uretere, la soluzione è l'ureteroscopia, che richiede un'anestesia generale e prevede l'inserimento per le vie naturali di una sonda endoscopica che garantisce in mani esperte, grazie anche all'utilizzo del laser ad olmio, un successo pari a quasi il 100% dei casi. Diverso il discorso, vi dicevo, per i calcoli renali, dove i migliori risultati sono offerti dalla litotrissia percutanea, più nota con l'abbreviazione anglosassone di PCNL. Dottore, anche in questo caso è necessaria l'anestesia generale? Assolutamente, questa tecnica infatti prevede la creazione di un accesso percutaneo del diametro di circa 1 cm, attraverso il quale viene inserito uno strumento del diametro di una penna Bic, per capirsi, con il quale si frantuma il calcolo e se ne estraggono quindi i frammenti. E l'intervento è un ottimo intervento, dà delle ottime probabilità di bonifica del calcolo, ma la complicanza emorragica anche in mani esperte non è del tutto trascurabile. Dottor Giusti, una domanda, ma per risolvere il problema dei calcoli è sempre necessario utilizzare delle tecniche che prevedono anestesie ed incisioni? Non ci sono delle tecniche un pochino più soft?

prima di continuarci a lamentarci degli acciacchi che il lavoro produce, magari turni, un lavoro pesante, stressante o che acuisce, 824 0024 è tempo di sentire le novità che arrivano dal mondo della medicina e della ricerca. GR Salute. Uno studio indaga la capacità del cervello di autoripararsi e apre prospettive interessanti per il trattamento delle malattie neurodegenerative. Professoressa Maria Pia Bracchio, Dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università degli Studi di Milano. Noi sappiamo che dopo una lesione ischemica, dalla zona cerebrale lesa partono una serie di segnali di allarme che vengono recepiti da altre cellule che si attivano con finalità riparative. La novità della ricerca consiste nell'aver individuato l'interruttore molecolare presente su alcune di queste cellule che consente di iniziare il processo di riparazione. In particolare abbiamo dimostrato che un recettore GPR17 è presente su cellule progenitrici immature che sono ancora presenti nel cervello adulto e che, se attivato, permette a queste cellule di intraprendere il percorso differenziativo che potrà portarle a generare nuove cellule nervose. Quindi, se validate in altri modelli e ovviamente poi nel paziente, questa scoperta potrà portarci ad amplificare le potenzialità riparative del cervello. Se devi partorire, scegli il meglio. Questa è la raccomandazione degli esperti della Federazione Italiana di Ostetricia e Ginecologia. Professor Massimo Moscarini, direttore della clinica ginecologica dell'ospedale Sant'Andrea, Università La Sapienza di Roma. Spesso la donna trova difficoltà a riuscire a individuare un percorso di assistenza per idoneo e adatto alle proprie esigenze e in modo particolare alle sue aspettative di sicurezza. Facendo riferimento a un piano sanitario nazionale, crediamo e siamo convinti che un ospedale, per poter garantire la massima sicurezza, debba avere almeno 1000 parti l'anno, debba avere la presenza almeno di una terapia intensiva neonatale di secondo livello, e questo al fine di garanzia sia la vita della donna, sia la donna stessa, sia la vita del bambino, del neonato. Credo che come federazione di ostetricia e ginecologia, che comprende ginecologi universitari, ospedalieri, territoriali, liberi professionisti e vuole comprendere ostetiche e biologhe, siamo pronti ad affiancarci a una proposta, quello di far sì che le agenzie sanitarie regionali aprano uno sportello che permettano di dare tutte le giuste informazioni alle donne per sapere qual è il punto ideale per poter eseguire la propria gravidanza, per poter avere il proprio parto. Siamo tornati insieme. Molto spesso, quando parliamo di lavoro, gli mettiamo vicino una parola: stress. Bisogna cercare di capire se è il lavoro che ci stressa oppure se al lavoro portiamo lo stress che accumuliamo in altre situazioni, nelle relazioni familiari. In linea con noi abbiamo il professor Giampaolo Perna. Buongiorno, professore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Responsabile del Centro per i Disturbi d'Ansia dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Professore, io vorrei che insieme ai nostri esperti lei ci desse qualche indicazione molto molto pratica da seguire. Tante volte, se sono troppo semplici, non le seguiamo perché crediamo che non valgano. Per un po' lasciare lo stress fuori dal nostro mondo di lavoro e anche senza portarcelo poi a casa. È possibile? Sì, allora facciamo una brevissima premessa che dice che lo stress è una componente normale della vita di tutti, quindi è chiaro che ogni volta che noi affrontiamo delle situazioni di vita diventiamo stressati, ma il problema è avere uno stress buono. Quindi lo stress acuto, cioè quello che viene quando dobbiamo affrontare un problema, è ottimo. Quello che ci portiamo via col tempo è quello negativo, quello che si chiama stress cronico. Sì. Quindi i suggerimenti veri sono: ricordiamoci che fare dell'attività fisica riduce comunque l'effetto dello stress, che alimentarsi correttamente, regolare il ritmo del sonno in maniera ottimale e soprattutto trovare degli spazi, riuscire a staccare la spina è cruciale. Lo stress non fa male, è un'arma che ci permette di combattere, ma dobbiamo essere capaci, finito il momento, di staccare la spina.

risolverselo per conto proprio, una oppure risposta peggio. Rapida, che dobbiamo andare a sentire il traffico, e voglio salutare anche Antonio da Treviso che ci sta aspettando. Dottor Gargiulo, direi che dipende dal capo, se accetta si può parlare, differentemente è un rischio troppo grosso secondo me. E, dottor Santerni, rapidamente sì o no, si parla o si tace? Velocissima è questa: se hai un altro lavoro a disposizione altrettanto gratificante, scappa. Antonio da Treviso, la domanda e poi le diamo la risposta dopo il traffico. Buongiorno. Allora, a lei. Io sono un infermiere, sono turnista. Sì. Allora faccio un turno normale, due mattine ed un pomeriggio e una notte, con due smontante e due riposi. Sì. E lei può immaginare cos'è: mi alzo due giorni alle 5. Sì. Due giorni dopo vado a letto dopo le 10 e l'ultimo giorno vado a letto alle 7 di mattina, quando sì, smonto dal lavoro. Questo è uno stress non differente, voglio dire. Certo. Eccoci, siamo tornati e abbiamo il problema dei turni. Dottor Santerni, questo è pane suo? Sì, mi ci butto. Ma è uno dei problemi, diciamo, di ergonomia più presenti nel mondo del lavoro, nel senso sì, che di solito quello dell'infermiere al limite non è neanche una turnazione delle più cattive, perché vi sono... Beh, sui mi piatti... sembra, da quanto ci ha raccontato il nostro amico di Treviso, mi sembra un calvario il suo. Sì, sicuramente. Io trovo giorni... che specialmente il lavoro notturno sia un discorso, un problema da evitarsi ove possibile. Ma immaginatevi in un'azienda dove c'è un ciclo continuo, dove quindi bisogna mantenere degli impianti chimici sì, attivi o a questo non si può. Degli impianti siderurgici. Certo, dottor Santerni, fare. Siamo consapevoli che purtroppo anche se la notte sembra fatta per dormire, qualcuno deve lavorare di notte, è necessario. Ecco. Ci sono delle persone che non devono proprio accettare un lavoro che turni con turni notturni? Assolutamente sì, delle persone che non devono lavorare, sono essenzialmente le persone che hanno delle patologie croniche, quindi che sono gravi e documentati disturbi cronici del sonno, gravi malattie gastrointestinali, gravi e documentate malattie cardiovascolari, insomma diciamo tutte le malattie croniche. Sì, ecco, non devono questi lavoratori, se non ben compensate dalla terapia, voglio dire, un c'è modo, dottor Gargiulo, in qualche modo di sollevarsi da questa fatica dei turni per un lavoratore che i turni deve farli, quindi in ottima salute tocca a lui. Ecco. La turnazione che ci diceva prima l'infermiere effettivamente è mirata a quello. Abbiamo visto due mattine, un pomeriggio, una notte, un giorno di riposo e poi si ricomincia. Il dramma è che lì l'infermiere avrà anche delle percorrenze abbastanza lunghe per raggiungere il luogo di lavoro, perché svegliarsi alle 5 la mattina per prendere servizio generalmente intorno alle 7 o alle 8 del mattino, ecco, significa anche un periodo lungo, quindi altra fatica. Altra cosa importante è quella di riuscire a rispettare, a riprendere certi ritmi sonno-veglia, quindi la notte di sonno persa è difficile recuperarla dormendo al mattino. Magari sì, si può cercare di anticipare l'ora a cui si va a letto la sera dopo. Anche se uno è un gufo oppure un cioè indipendentemente poi è dai... chiaro che la individualità in questo, certo, la dice molto lunga, e i turni di notte dovrebbero essere fatti dagli insonni, però non è così facile. Paolo ci chiama da Bergamo, 824 0024, benvenuto. Sì, buongiorno. Paolo, nobilita nobilita o debilita il lavoro? Oddio, nel mio caso debilita, e vi spiego anche. Io sono un gufo per lavoro. Io e mia moglie siamo dei panettieri. Sì. Perciò oltre a avere a non dormire di notte abbiamo anche lo stress, perché oltre ad avere i problemi di casa poi arrivano anche sul lavoro. Certo. Perché siamo in contatto circa 24 ore al giorno. Facciamo 23. Quindi i vostri anni di matrimonio praticamente valgono doppio. Questo è un vantaggio, potete festeggiare più spesso. Ma il problema nasce la domenica, quando di fatto vorremmo dormire alle 2. Sì. E la cosa non è così facile, perché noi facciamo tutta settimana in piedi dalle 2 di notte fino all'1 di pomeriggio. Un sonnellino, poi si apre il negozio e si va avanti tran tran, perché siamo in due, impresa familiare. Certo. E non è così semplice. No. Abbiamo una figlia, sì, perciò oltre allo stress nostro del lavoro, stress familiare, c'è anche la bambina. Certo. Di cui dobbiamo calmare i nostri stress. Certo. Sentendo il vostro intervento di prima, il professore diceva di andare a correre. Ecco, io quando non vado a correre sono incontrollabile. Quando invece vado a correre di un mese, due, tre di fila, sono tranquillo come... Vede, lei renderebbe, renderebbe felice il professor Perna. Quindi a lei la corsa in qualche modo riesce proprio a liberare dalle tensioni e a far recuperare un po' questo ritmo. Dottor Gargiulo. Direi che questo senz'altro è in linea con quello che dicevamo prima. Però un consiglio, se posso darlo, vista la qualità dell'impresa familiare, marito, moglie, che sono così impegnati con turni così massacranti, devono trovare un equilibrio diverso dal punto di vista lavorativo. Cioè, non dimentichiamoci che il lavoro è un mezzo per star bene, non deve essere il fine o lo scopo della nostra vita. Dobbiamo a un certo punto riuscire a dare dei limiti anche al lavoro, perché soprattutto se è un lavoro che ci piace, magari loro fanno volentieri, la loro impresa va bene, siamo tutto d'accordo, però non si può sacrificare la propria esistenza o sacrificare il proprio organismo al lavoro, questo è sbagliatissimo. Questo è importante. E andrei ancora a Bergamo, ancora un altro Paolo, buongiorno. Buongiorno. Abbiamo una famiglia di Paolo da Bergamo oggi. La mia domanda è molto semplice. Volevo chiedere, un posto di lavoro dove c'è uno scarso ricambio d'aria, sì, e una scarsa illuminazione oppure mancanza di luce artificiale, può essere fonte di stress oppure di malessere? Perché lei vive tutte queste condizioni insieme, poca luce, poca aria. Esatto. Oh, sì. Mamma mia, povero Paolo. Dottor Santerni. Certamente sì. Nel senso che non ho capito se lavora come dipendente o come... No, sono un dipendente. Ecco, allora la legge le dà il diritto ovviamente a rivolgersi al responsabile della sicurezza interna, al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, oppure direttamente al medico competente, se c'è, per verificare come sono le situazioni lavorative che lei patisce. Ok, allora noi abbiamo gli strumenti, in qualche modo la legge ci tutela. Andrei, Alessandro, devi intervenire tu perché poi abbiamo Anna che ci chiama da Udine. Sì, brevemente a dottor Gargiulo, tutti questi lavori ci danno anche dei piccoli malesseri, abbiamo visto, no? Magari noi abbiamo fatto una prima visita, abbiamo avuto dei farmaci, poi decidiamo di continuare a usarli da soli. Ecco, quando è per la schiena, qualcuno magari per dormire, eccetera, quando è che invece bisogna tornare dal medico? Ma le terapie che vengono date dovrebbero avere sempre comunque un termine. Il medico dovrebbe specificare quanto se ne deve prendere ogni giorno e per quanti giorni. Al termine del periodo bisogna riconfrontarsi con il medico per capire come eliminarle. Certo, di solito sono sintomatici. Vabbè, se noi prendiamo la compressa, l'antinfiammatorio una volta ogni tanto, lo possiamo anche far da soli. Però se c'è una terapia stabilita per un certo periodo, torniamo dal medico al termine. Andiamo, ma per 30 secondi a Udine ci ha chiamato Anna, a cui voleva almeno salutare. Anna, noi siamo in chiusura, buongiorno. Buongiorno, io volevo portare la mia testimonianza. Se riesce a essere super breve, perché mi stanno sfumando. Io lavoro da tantissimi anni in una pulitura secco, sì? Ed è debilitante perché lo stiro, eccetera. Sì. E appunto ho risolto il problema della circolazione del sangue, tutto correndo. Quindi grazie Anna, abbiamo fatto bene ad andare Anna da Udine, perché ci ha raccolto ancora una, ci ha contribuito alla nostra trasmissione. Muovetevi, è anche un modo correte, è anche un modo per staccare la spina. Nicoletta, velocissimo, le nostre casalinghe, torneremo sul loro argomento, faremo questo, una puntata tutta dedicata a loro, perché le casalinghe non smettono mai. Esatto. E hanno un lavoro pesantissimo. Allora, il dottor Gargiulo, per la gioia dei suoi fan, tornerà a trovarci per una puntata tutta dedicata alle casalinghe. È una promessa. Alessandro, pensaci anche tu. Certo, sicuramente. Saluti da Nicoletta Carbone, il dottor Gargiulo, il dottor Santerni, Alessandro Pellizzari. A domani dopo il GR delle 11.